qua, è venuto qua, si capisce? Chi è? Beh, no, puoi entrare, Giovanni. No, io quando ne voglio accendere lo faccio, però si può fare, basta che si fa di un 30 metri di seguito, si può fare in due dì me la posso. No, ma la mia per tagliare l'erba è buono, me la fucchi da voi. Che calcolo di bene ancora di buttare, io lo faccio i miei cognati, e allora io non mi appicco all'albero, a chi ma non saranno. Oh, e che faccio all'albero? No, non sarà donno, ma che io non faccio più l'albero. No, no, no, grazie, ormai faccio. La terra va bene, ma all'albero no, non faccio più, manca per sabbio. C'è di fresca, guarda. Oh, la giusti sarebbe la mia giù, la giusti in terra, non la volia vedere più. Se la giusti in terra non mi interessa, dai l'onnaggio lì, guarda. E che ce la tutti. Oh, per cui all'albero non va. Ah, mi stanno passando, ha giù puntato tutto quanto, però me l'ha fatta lo prendere di Franco. C'è stato un paio di tipi. Me l'ha passato bene, altre canta legna l'abbiamo fatto, io non ti dico niente, grazie, troppo l'anno, troppo acqua era divertente, era troppo legna, allora brutta, magari non si scia aperta, capito? Invece chi c'è andato giù, tutta giù buttando, pure la figlia, il cacco, la bella, la mela, la bruna, tutta la... La bruna di Molinca non la tocco a chi ce la tocca, chi si sta di 4 o 5 anni che non può di frutta, già lo sai, la bruna di Molinca è così. Però, quando si allaga, non può trovare più un ippau e tirare in mezzo e per il crigno, capito? Che non rimane la galaga, se no lo posso battere molto zappa, capito? Ma di resto... Un bel chiacchio l'avevamo tagliato, giusto, ma prima raccocco ma te, certo. quasi a zero, per cui avanti riciclo legna nuova, hai lasciato un cacchi brattito, magari per poter tirarmi e basta, capito? Ma non mi interessa, si chi sanno un raccocco non è buono, ma è buono l'anno più bene, capito? A chi gli vuole un paracocca e spacciatura, grazie. Hai spacciatura, sai che non mi dai spacciatura. È bello, veramente. A posto un cacca a caldo, non si vede il cacco, un cacco maduro, mai era giusto un cacco così bello. E poi sano muro. Così che è bellissimo chi si è puntato dall'albero, una frutta che pone, e poi ne vede, più sana muro, capito? E io avevo usato tutto quanto e per cui era bella pulita il stato e per cui la pianta si rilascia, ecco. E così è venuto un po' tranquillo, ecco, ma cosa cresce di mezzo a chi per più luce, capito? Per più aria, per più luce, io lo credo, ma pure arrivati gli arrivati venne, che va, nasce le rami nuove. È lo brutto, quando lo buono, più bello, più rinfuzzato, anche le vitamine, ne di più, anche ne ha tagliato un bel rame, ne ha duplice, e già lo so già che fa così. E davvero mi attrisce, no, già, per dire, arriva che cano non venne, ha già mai dato, assurda, nell'hanno passato nel cano, arriva nuda. Un bruminaggio, fa i valpoli, non venne, ma qui si campagna di vicino, si sa arrivare, quest'altro non è appunto, io aveva cominciato a uscire la ramola tra poco, per cui aveva finito un saggio come si dice. Non è che io ho chiuso a chi vinaggio per il salvo o che so, proprio faccio l'antenna, che se vuole la riva è fascia dura, però è tutta munta, capito? Il salvo pure è abbastanza, è pulita, spesso faccio, ma abbastanza fanno parte di chi mi fa di opera a me sotto, capito? Sempre la stanza così, che è buona, tutta munta, ma ne buono un bel. Cazzo, era l'affetto qua, non bastardi, le arriva, però è tutta buona. Ma non mi interessa, grazie. Non mi interessa, io la brigando a fare, la arriva. La componente per la bocca, ma ancora fino a arrivare, da 5 anni fa, sarebbe niente, tutto. E il tetto era da mezz'anno in campagna, dopo mezz'anno, mi lascia lì, l'avevo alzato un poco. Ah, c'è poco, buona. Oh, ya. Cazzo. È un po' più pollo così rumbo, domenica, invece la gente era stuzzicante. Già lo credo, no ma andà a fa, sappà, fa come se prima, la FG non saranno, poi ci farà tagli, non fa tanto qua, fa i programmi così. Ma non più di altro, no, non mi interessa proprio. Troppi sacrifici, è una bella cosa, cazzo. Poi manco bianca, anche la cosa gusta di bianca, una vacca di lava, cazzo, tatuare invece, quando me la bili invece bigliare due chili, me ne bili un chilo, cazzo, no. Già lo credo, ma sai, vieni anche più in via prima io, mesi tiri, e poi devi stare qui, vieni su un tipo di mesina, conta che c'è tipo di brutta di soldi, gira gira, a un pian per la medicina Giulia, ah ti cazzo a mesi che è, ma io sono da fare legge a casa. Queste volte parti a mano di campo, quando entrambi siano stati buoni la mascherina, però qualche cosa riesce a ritirare sempre, capito? E allora l'unica cosa, la vai davanti, non figlio più medicina di nessun tipo, e così ha già fatto la piazza. A tanti medicina, tipi di medicina fanno in campagna, a una base, e dopo quasi a Pulinovi, oh io non li tocco, non li tocco alla base. Sono a bacio ma non li so. Niente medicini, si anda, e si è sana, se no ce la bilanna. Per dirti no, la sua cantina di pesci medicina non avevi a tu. Ma non mi dica giù niente. Oh, certo. L'unica cosa è che di mare ruba, già solo già 2 o 3 anni si ruba, boh, si di qua, si sì, ma a neureggio, sta canta. Cazzo prima per far via l'uva e fasciature, cazzo si bruciava Vicenzo, se la bruciava e si fa via Rubino, a chi non la faceva mai la sera, ma un bel tuva, e invece da 2 o 3 anni sì, mi buoni, però sa neureggia, forse a chi lo per sole, su ombra, vera troppo bianca, capito? Ed è l'ombra e allora soffia la l'uva, forse era balissimo. Ma che sanno, è una circondata nei fondi, ancora gioco a fuddare, va fra poco, li butta e li lascio solo un occhio, li lascio, si è andata, se no ce la vede il Napoli. No, a Luba l'avevo pulito, l'uovo che piglia lo sole, a Luba avevo lo sole, avevo la luce, lo sole, e i vignetti non lo vedo mai il sole. Ci vuole il sole, anzi, più sole piglia, più bello, più buono esce l'uva, e più becco anda la pianta. E poi a l'uva li devi mettere, il rame li devi spruzzare, se no si caragineggia, e non esce più così, così fai morire la pianta. Ci vuole il sole, però al tempo il rame glielo devi dare. E se no andava in Roma, compreso. E io mi davia due volte mezza, una bianca, una nita, di chi so va bianca, bianca, uva Italia. E che imbecille mio nipote mi ha strappato tutti e due i piatti da sotto, dalla radice brucca, che mai mi romagno. Se lo fanno crescere e punia tutti i ratti che erano crescendo nella rete, nel muretto, nella rete, no? Che a rombo si ribassava gli vetretti, così da pegando cresceva l'uguale, rimane a penzolone e la a piscare. Mica che si imbecille me ne l'hai fondato. No, è finito di fare i tipi io, perché era in uva, capito? Però te la dico, vabbè, già due o tre anni che me, che non mi so come niente, non so mai grazie, purtroppo, mi so un baccare di Cagliari, chiscio magari è più sano, non si attacca la malattia. Però fino a una pianta, giuro, per cui poi tra Cravullo e me, per cui è un bel ombra, ma te che in questa pianta pure andate male, capito? Infatti vivo solo, ecco, metto tu ombra che tu hai, pure capito, però qui sanno io li piani, laggiù qui li grandi là, chissà che sanno chi ne bombi a chi budronizzano, e chi non mai si vede, è la nome triste, quindi la ragione. Certo. Da me la correggio, però prima io irazia un bene a tutti, capiamo, dico a tutti, però allora se ti guasta e allora che se la tutti, no mi scrivo, io ricco gli altri in me, mi sono altri i tipi di frutta e per cui già ti rimandano anche me, capito? Io vediamo un po' se c'è qualcuno fra. Che è aiuto, me ne uno passo, ma non so chi è. Oh, una gente si dia K2, boh, ma Travaglietti sarà. Mi pare che la Travaglietti, la frati, la gentile, mi sembra che ha detto che sto rientrando dal lavoro, ha detto, era il cracco. E poi però non l'ha più inteso, ne manco io, sicuramente se la travaglieni o poi prendi chi in campagna Zulia, bocca, che cosa l'ha fatto? L'altra sera era anche tardi la sera, mi pare ero quasi Sanremo, gli setti passati erano, tanti che l'ha inteso. Sicuramente con che mezzini se ne approfittano i buruetti di chi a passare qualche cosa. Ma non è più come prima, l'avano fatto ne manco più a tenere gli altri, gli altri poco lo mangiamo, fammi capire come ci facciamo noi per un misciava, fammi con la roba e bucava, le mani dolci, mi chiuda. Cosa la vacca di Napoli si mangiava, perché non mi sciava per mangiare, no, a diventare più grassottelle. Ma adesso conta tutta una vacca di Napoli, non conviene più, cazzo, oramai. Io amo e me la comporete, non la giubbo mai in campagna, animale di sigle, no. Lì vado a sempre il gallo, faccio al tedesco, però era un impegno grosso a chi lunga dite di fare là dalla magnani, no, grazie a voi, so che si dice, tutta rimare, va in campagna, cazzo, quando mi piace il varo, non mi piace come il varo, per cui no. Canto paraghizzato, il bosco, la veranda, il fresco, grazie a... cazzo, sai che... il bosco tranquillo a travagliare, la biglia a Napoli, cazzo, quando fai animare, sei sempre impegnato, a chi le devi pulire, le devi mangiare, e devi borsardinarti, poi aggiungarli con mangiare, capito? Non fa più, no. Poi la cosa costa troppo, no? E pure se fai un cane e devi fare ogni anno a darla a mangiare, oppure una di sì, una di no. Sempre di là vi vuole, anche la benzina non la vuole, o no, mi cambia a pizza. Sempre soldi ci voglio. poi dopo è nulla che qua. Tanto gli hai barata la benzina, cazzo. E magari cupera uno magari che abita ai vivi, ecco, abita in campagna e si fa l'orticello in tutto il periodo, si muove due iadini, due conigli, e tira lei andare, ma i vivi, ma di uno in casa in casa, per dire, no? A farà giungere da Puriglia, dalla mattina, no? un impegno, no, grazie, non andare, per me non andare, perché se siamo parlati che non può fare, io non posso più niente, se quando vado va in primavera per fare qualche cosetta, e se può volo qualche cosetta lì si riga la posta. Cazzo uno viene sui fai, oh, per sempre chi fa? Però forse è obbligato a fare, cazzo ti comando, non ti comanda nessuno chi. Mi boh, ti lo fresco, cosa che trombita che la botona. E se la fu. E ammazzo la divisì, grazie. Qualcosa che dà, no, mi poco più che dà, no, grazie, faro, altri, la divisino. Ho 3 chilometri, puoi immaginare, la campagna mia. Per cui fare altro, e non c'è problema di niente, capito? Ma tu fai la casa, manda chi fa, fai tutto come dai, e sei più tranquillo. Però io non ho, ma capisci più. Ma non ti ricordi una casa, chi dà, no, non mi piace più come c'è prima, no, è tutto diverso. Prima era diverso, il risano, vabbè che ha cacciato quella. Ma non aumentava, dunque, non mi sono più parato. Non saranno. No, la pega delle chitarre, quando mi fate a tutti i ricchi, chitarre, non che mi danno i miei figlioli, telefonava, ci manca questo, ci vuole quello, è finita la bomba, cazzo, sale scende, sale scende. No. Adesso un minuto, Giovanni. Ehi, a Tocchino, che va? Sarintendi, a chi sarintendi? Care. Spagnolo, cosa mi ha succedo, l'hai inteso? No, ero un po' disattento, era. Dino si specca le docce. Vabbè, comincia di una propagazione. Oh, yeah. Se non è più come un tempo, poi un giramento di balle, tanto i righivi, ma li abbiavano, li rubiavano, tutti paravano, cazzo il giramento di balle, brutti. Allora il giorno è, vera gente gli fa, grazie, sempre. Dopo la vai tutti, cosa vuoi fare, cazzo, purtroppo. Per cui faremo lo stesso, noi faremo. Da, faremo, ma non fissi come prima, per prima quasi a metà, 20 sicuri, quasi ai, dai, assolutamente. Dai, sto come no, tutti, cazzo, grazie. 6 chilometri andate e ritorno, ma con casa è tutto a sagoglia, poi si rimagna la zinzola, non sanno dai le medicine, ma si rimagna la zinzola, gatta, madonna, gatta, sempre grattelle, gatta. Se si può si è rotto i gatti di zappare tutto quanto, ma poi fanno poi i mossi gatti, gatta, e comincia con un po' di zappare, lui si beccava e ha cominciato a grattare. Eppure malissimo me, che io, prima non mi faceva niente, boh, se parte tutto, vai niente via. Pensava a me, lì sì, quando fa la giostra a innaffiare la grume. Cazza madonna, mi devo morire un buccalore la reccia mi dà, un po' più, ma che se io mi faccio la reccia a beffa, E allora, ripeto, ti muova a fare a campagna, ma i ricchi vogliono più fatti della vita, capito? A chiara tutto a me mi si chiede, la vita no, a me mi si chiede un bene. Ci sarà anche voi, ci ha giubato la campagna, un pronto soccorso, giugniamo un buglione in faccia, in braccia, in lanchi, in pistola, si lavora di un gusto. Certo, ma se quante volte sarà andato in pronto soccorso, in luci, un paio di voi, in luci, giugniamo un buglione, magari mi viene cucciuto un pugno a faccia, ogni adulore. È bruciore, da voi mi sentava pure a passare, ma non sono una rinfano, si narizzano a me, non va, non passi, che a me fa di mezzo un mappattaccio, c'è un avosso, no, poi a me è pure pericoloso, cura di abete il bagno, non di pulire bene, ma un mosso di rinzola. Ho un mosso di mappattaccio, di un amare. Ma in campagna già era attrezzato lo stesso, già la bunia più spesso la medicina. Ma a certi anni, da sotto, arrivi a nuvolone, ti trovi fuggi tra il tuo casa e sarà gli anni, e comincia a ammazzare chi ti era entrati dentro la casa. Ma sai, mi stava a un cannello di Luca Tram, io mi sono buccio sotto la veranda, tutti questi bruciani in l'aria, a gruppi venivano già, ma una cosa qua, da fare paura, io bruciavo questi enti purenni, a chi non era uno o due, no, a migliaia, nuvoloni di zinzola, a me mi ha fatto un colpo, ha circolato tutto, ma con quel cannello riesci a ammazzarli, mi si sono entrati a dritto. No, hai capito, sta più dormito, dritto, quello bianco della medicina, da buro dritto, no, sono finiti questi tempi, pugna amari, no, paro di lì, la gira, posso in macchina e me ne torno a casa, e prima di pararci a loro intorno, mi. Come ti fai con i suoi parenti sono qui appusati in macchina, andando in mini, non hai più preso. Macchine, statemi, piene estate. Più dalle 9 non ci sono rimasto, più di bene ma più, no? No, staranno. Che ti vuoi arrucchiti per dire, se mi piace io mi nato a casa. Boh, lo tutto è minando. Quello visto, allora io dico, lo dico, buono. Oh, strano gruppi, Oh, io un anno baratecca, grazie, un 94, ancora, ho rubato a zinqui. Sì, però bisogna fare qualche tricchi, perché quando paravo prima di entrare, prima di quando mi parava la macchina, vorrei che fare, mi imprassavo di che fare di cose di naffata. Ma chi non l'ha fatta è da fuggi, cazzo, era molto chiusura, non l'ha fatta. Ma non c'era zecca di fila, grazie, io non ti dico niente, ma zecca, sotto la planta, ci non mi avvisava, un paio di balettanti la cuglia di questa zecca, dalla mezza che ponivano, morivano, però prima passava a finire. La bomba mi beccava, lo bruciavo la bomba dal guancello, un di passato mi, tutto veramente sopra il gondolo, bruciava la gatta e sì, è mai giusto. Però da bomba, ma sai perché è vero, hai spacciatura gatta, hai spacciatura, ma hai giubito zecca, sai come te l'hanno. Allora il travagliente mi ha detto un pastore no. Ma dammi se mettere il ragionamento della zecca, ma che se mi, secondo me, non è seduto da nessuno, è durato a me che la giucca possa zecca. Beh, allora che vai a sabacca, se cannon ne muca a sabacca, tu vieni anche per secca, sulla tu vieni per secca, che hanno mucchia. Fai voi nacchi, ma lei da che ora nacchi te l'ha fatta, la povera pompa era fatta in ogni luogo. La sabbia, poi due altre borsa, tre volte alla settimana, grazie alla giurata. Beh, non sai che da l'anno io la smetti di una secca. No, fai una secca in lungo, nuda, nuda, nuda. E non si può la parare qua, così. E va fino a giocare con la bomba, cazzo, è un criterio. Beh, ammorto tutta la secca, capi, sta zona, non fino a arrivare manco una più. E un anno gliel'ho messa anche io con la pompa, ha bruciato tutto i muri della casa pura, i pilastri, la veranda, tutto, tutto rubato, il cancello, pure il cancello, in giro al muro, il cancello a parte in pura. Anche da noi un anno era in fase, infatti a me migliore ne avevamo avuto. Ha detto, ma mi è uscito un neo nell'imbirico, quasi tratta l'imbirico quella via. Apro che neo era, ha pigliato l'aglio parecchio, l'ha tagliato, l'ha passato vicino, puff, e si è sciacata con l'aglio. Era una zecca di sera 30, tratta l'imbirico, minuta a minuta, hai compreso. Altro che neo era, altro che c'è una zecca, non lo vedo. Perché l'abbiamo detto che l'abbiamo abbruito, si grattava e no, non riusciva che la pedda gli ha attaccata, compri. Ah, ha giubilato l'aglio, l'ha giubilato, l'ha giubilato vicino, così, si è attaccata, si è attaccata all'aglio. E gli era arrivato il puntino rosso, infatti la domenica lui è andata dal produttore, altro che ciò, infatti dalla voce non è più parata a me figliola. Oh. Ma fanno l'anno infatti l'anno, ho fatto campeggio, mi sono andato in campeggio a Coso, a Portoferro, capito? Ma che ti mi ami, ti chiami Bacchi, era troppo, ma si preso che vedi, come se mi ne faravo dalla macchina e ero già camminente di camminelli, cazzo, la zecca era in terra, dappertutto era la zecca, e non ho giudicato mai zecca in vita mia, commenteranno. E poi no, la palla ancora non era intonicata di muri, no, così che ci si muoveva 30 di cose, di buche, di ribocchetti, no? Cacca, più bruciava, non bruciava, è più indesciato che c'ha cose. Ma sai, la boia aveva già avuto una tipo di mezzina povere, di pagare barriera 35 euro, barriera abbiamo pagato, una bruciata da mezz'chilo, da Lugusciotti a Grado, da Lugusciotti la Idi e da Campusanto. Fino alla via, sì, l'ammazzava, però era impossibile ammazzare tutta questa roba che via, capito? E bruciava con i bruciatori, e poi anche i medesini, ma che fece un po' così là. E io prima entravo qua c'è lui, mi voleva ricevare, per ricevare in macchina, e mi impressavo, ricevare di là, allora non si mi attaccava, sì, non si mi attaccava pure là. E di passare c'è tranquillo un figlio a Lugano. E dalla voce, aspetta, la buia ha trovato una bomba e con mio luogo, non ha giudicato lì, sono un mezzano, dallo matta quattro. Allora, matta quattro qui, capace a me lo fai con la zecca, a me sembra molto pure un cane dalla zecca, nonostante che gli voleva le misine, eccetera, eccetera, e sa fa. Cazzo, mi cazzo una 10 mesi, non mi sono recuperato, e l'ha già avuto il cerrito, grazie a bassa capitale del bosco, molto poveretto, ma lì bosco, poi la papera più vecchia che è il cappello, non mi sa, l'ha morto, l'ha succiato tutto il pezzo di sangue, si può immaginare, ogni mare si rattacca, però dalla bocca, grazie a Dio, l'ha già avuto più secca, mai in campagna, ecco, la papera zitto. Vabbè, la zizzo è fasciatura. Lo metti la chiusura, io quasi su quant'è, no? Un bisogno di soldi ci presi, veramente a sopra, prima mettendo in muri, è tutto etera, no? E i confini. Beh, si buoni i confini, in mezzo all'etera, ma sai come te ne sappito? Oh, ya! E la sera si è bucato, e tutti tipo i benzini, lampa, la macchina, addressa, i vicini, niente a fare, si cava, a me mi bossicava sempre, a me pulieri no, però qualcuno è da buia, a me mi faceva beffa, e allora ti mi fa farvi, Sì, la zinzola, sì, ti buoni questa zinzola, che in questo periodo l'hanno passato da un ristano, la zinzola tigre, e la tagliata a mucchio, questa signora che la passi geni in montagna, si è arrivata la campagnata e mucca, da zinzola. Chissà subissino, ma te c'è la scappagnata del muso, dai stati sulla tigre, mondiale, no, oh, non andava, e tu l'era che non era dai, ma sta tagliando, nella terra, cosa ti nasce, a chi è di chi si fa di riunito, creano i rovi, a sa quanto nesci, e un bel, nella dai, e tutta chi selva che viene attaccata alla rete, alla rito, tutta grabbiglia si fa, di no. Già la vedo a chi non ti vede nessuno che sta fatto. Una lì ha giubilato e ha ricominciato con la polvere, a tagliare proprio da un 10, a mandarsi finne, e così hanno anche diminuito gli animali. Che da voi che vi mette si fate nei riniti burrisuri, o non hai compreso? No. Più poco in è, ma di questa cosa non c'è la vedo, però troppi nascondigli, sinciola, sorichi e altri animali. No. In campagna l'hanno bracciato tutto, nulla, no, non le lascio, ma qua erba, ne la taglio sempre, non mi la butti nulla. E vabbè, lei per la taglio buco, capito? Però le cantare bisogna, la zinzola per sempre, capito? Poi a chi cazzo i fiori, gatta, mi sono vedi i fiori, come stai in maffiali, gatta, gatta, la zinzola non mi dai, per un Roberto di Rovasconi, chivi, gatta, chivi, ma pare tutto, gatta, è sempre a me, c'è un rubinetto, e non mi dai, allora, dai, verai, chivi. E più ripeto, il copio è tutto etera, è in mezzo all'etera, è la rotti è sciapito, capito? A piatto romante, gatta, io faccio due lampade che li bruciano, e più poco che si cose, che si rotolini, l'accendo, e lo fiago, la guardi a lontà. Però un piatto per farti male a Maticabo, allora gli sono costretti a non ponirmi, a chi mi dimostra mi ha fatto un bel a Maticabo e per cui ma qui ci possa studiare. E non è che non ci hanno parato, che è male, ma che non ti posso ingheggiare. Anche io rimetto quei rotolini che l'accendo sul da passare dalla finestra a Brugioni Bongo. Dice, poi c'è stata la veranda, il Bongo in realtà. Ah, un invisore Vaccone, Ivi, ma bene ne rimattesse da breghi, si cosa elettrico, gli ha dato in terra, però in campagna viene sottruppolo, beh, nulla che fa, no, da bella puntata di lì non ti puoi avvicinare, specialmente all'ora di mezzo dimmi. A pareti mi sono sta vicino, che ti va se ne vedo, a chi hanno rabbino. E allora, non mi dai, giusto. No, ripeto, prima non mi faccia niente, questa tranquilla per tu, tanta di manna, niente, non mi faccia mai niente. Beh, ci avrò 4 di canni di. Guarda, è non possibile, ecco, tutta buburiosa, sempre grattelli ciò, cioè, come farà grasseggio come integrato. E per cui va, no. Ah, pure malissimo, ecco, mi ne passate burro la gara, cosa vuoi fare? Ma poi sino quando mi affia a girare avanti, no? Quindi vivo un'oretta e più a tirare i fuggi dell'albero, capito? E attacco di bombe, il motore, il bozzo, e poi lascio fare la roba a scuola, ma fa più impressa. E andrò ad acciambare i bombe, li ha usato, patato. Ah, buttare le reci, catti in capo, e lo fate che passa malasussi, i lanchi, che se mi devo dire, scappa la macchina, coso, con la buccia di nero. Ma tu ti immagini da che punto siamo arrivati, che ragazzo, venne di questa roba. E per cui, ma vediamo un po', va. Aspetta un attimo, entro nel piccolino. Ciao! Poco dormire! Chi è? Ha fatto il fischietto! Chi è? E chi è, grazie? Poveraulo Brucelli! Beh, cara, di brucia. Com'è la radio, grazie? Pulita, bella, pulita. Che vuole dire, rimane la telefonata. Chi da Paoletta? Pignelli, che è disperata, non sa come fare. Andavi a travagliare, chi dovevi andare a rimane? Invece non va, anche volta non va da via. Ascolti, mia moglie non c'è adesso, sta lavorando. E mi ha detto che non ci viene più. No, io come faccio? Mio marito è disperato, oramai era affezionato. E lei passava a farsi i fatti suoi di non intromettersi. Dopotutto quella casa non era la sua. E la lingua se la teneva a posto anche lì, perché già si è chiacchierato con la sua amica. Dunque mia moglie... ha detto che non ci viene più. No, ma non può essere, cazzo non può essere. Ascolti, telefoni, quando viene, io non so cosa dirà, mi ha detto di così. Se la tira se telefonava di dirgli che non ci viene più. Sì, disperata era, il marito incazzato, sentiva dal telefono, Brienne con vista. Così imparato può essere la bocca. Da poi ha telefonato a parte in sera. E allora io da Paoletta. È stata più di un'ora convincendola. Anda. Allora sabato torna andà. Da lì da di Villegito. Bobo. Ebbene, ragazzi, hanno qui a un certo punto. Un attimo. Ok. Oh. Beh, se ci accompagnava male a un certo punto, fa di lei che non vada, però avanti si era convinta e di andare a vedere di più niente, a vedermi. Senti di al marito, in casa d'unito con la moglie, di tutto l'ha detto, di il marito era un bel arrabbiato, già si sentiva dal telefono, a bozza, o c'è la Eda, la moglie, certo, roba la macchina, prima aprire la bocca e la andare allo spirito, se no è, se la sono fatti due, fatti due, no, o non ti pare. Già, via, non c'è bisogno che apri la bocca a Buruzzullo, non ti va. Ebbene, io credo. E la parola di chiamare non dice niente, per cui rimarrà pure contenta di andare là. Dopodiché, vuol dire, magari capace di buttare qualche cosa in più pur di andare. Ebbene, certo, anche non so tu che hanno a fare se travagli un simmi. Certo, ruia, lì vedi fammi. Ah no, ma era ben tu dico cosa pretende, ma lo sai cosa pretende. Cazzo, se vuoi ci sta da romutinare, ma che un mese ne avevo capito che si aggata, loro che i bavimenti che si sono d'accordo in tutto il pure lì lui, sono abbattati i bavimenti, ma regala a casa brutta, a giornale tutti i muri lucida, capa in terra e ne bisogna un assurdo. Cazzo, ma a casa, ma lo tenate, ma io non vi ho dato manco gratis di chi va a metà, cazzo, fianco di muffa, che ti fa venire la breve, chi so fianco, allora, bacone del 1900 e fruscia, tutti svirgolati, mi deve essere un freddo, i chi che ti cancareggi, vai, per carità. Senta, poi sei già strabiliata la bella battossa dal marito, chissà, ti ha sentito il telefono. Disperata Ida, la prossima volta venga di là di in bocca serrata e ti fai i fatti tuoi. E poi quando lo sai le cose, cosa ti vuole a ciarrà, impara la chitarra zocca dell'amica Giulia, che era un'amica Gizzano. Cazzo, quando non le sai le cose, non le vedi, cosa si andrà lì, ma no, te no. No, gli da poi chi viene? C'è stata una che anda in macchina e gli dà su che gli si dinari domanda, non hai compreso che non va da nessuno, sarà la bocca di la giudizio. E beh, Giunché, lui si è? Ah? Come si chiama un dia che si aggalla? Ah, Filichetto, soprattutto, fini la strada, che mai si insegna, figurati. Ah, Filichetto, è un lezione che dà strada fea. Ehi, fai tutta la strada, tutta la pianura e sei arrivato. Che noi è al massimo, pioni, in mezzo di lavori, zicco, si attagli a torra. Dunque, un bel di strada avermi, anche da voi, da lei mi ha l'accompagno vista l'asfalto, da voi, dai che viene la via e se entra in circuito, che sono passato la prima volta, l'ha giudito, no no, qui andiamo male, se lei la vuole, a mia moglie, o viene giù all'inizio, o anche mia grazia da prendere, se non sono io le accompagno sino alla strada asfaltata, che non mi che faccia la macchina, ma fa venire mia moglie di nuovo che ha pulito la casa. No, no, assolutamente non già vengo io, a chi subito ti vuole aggiungere, ma cosa ci faccio quando mi sono occupato dalla macchina? Ci devo rimettere la macchina io qua, perché gli spiccioli che li dà. No, no, guardi che vengo io, allora andate. Beh, io quindi, hai fatto bene, vedi tu, sì, ma come vedi, mi facendo della macchina, non tu, che? E di ricordi a Rugia, la macchina contenta e magari ma non dice più niente, è capace magari la tribù la cosa in più, dai. Penso di sì che mi ridate che cosa di più. Mai dovrei andare ma la sera, no? E poi tra il tuo nonno, no, assolutamente. Vengo a battere il prossimo. Oh, non ne parliamo neanche, adesso io sono impegnata la dico. Se gli va bene vengo sabato mattina. E così che sabato devo andare. Andare da, ma la macchina è contenta e si calma. Oia, per carità. Ogni tanto ho sapito qualche cosa, ragazzi. Non sono mai contenti, ragazzi, mai contenti, ragazzi. Più ne vai, gente, e più ne vuoi, capito? E allora la boietta dice che mi dà le lastre dei naivi, quello là è il dottore, quello là non so più cos'è, quell'altro non so cos'è, ed è la bovola, ed è praticamente di là. E direttrice di un museo e poi di un altro luogo, normalmente di cosa, un studiali, normalmente di cosa, Barò. E più il marito lavora da direttrice impiegato, travaglia. Insomma, le moglie e figlioli non hanno, vanno in macchine, tre macchine, gippone, macchine che cammini 20 strade, due moto grossi, e Socrate che ti dirà, cazzo, Villaretta va. Però è da disibilare l'acqua di là, è da non si è abbaizzata, è poco l'occhio aglia. E ma già chi nare più le voli che sai, te lo sai, c'è così. Grazie, ecco perché fanno i soldi questa gente. perché sono a pesca, sono legni vecchi, capi, legni vecchi, maraggiucci, e riesce a recuperare un medicina e poi abbassi e riesci. Io mi sono ben così, grazie, e cosa vuoi fare? E ripeto, è più ne va e più ne vuoi, ecco, tutti chi vi. Allora, se ne vuoi così, se no basta via. No, se lo fate tu, guarda un attimo, siamo sempre, perché lavoro non ce n'è, e allora uno è costretto di andare, capito? Pure un bambino, capito? No, penso che vada a nessuno, no, a dire. Sono così con tutti, si sono andati, mi sono andati la primavera, poi non mi sono più tornati, la rabbisi. E pure andando in macchina a non conviene. A meno che non sbossa un bedilino, allora gli hanno dato la gente, non hai compreso. Mi uno è lontano, e poi mica manna, mica sa pillare, che fanno i... va sotto, sopra, giosso, la mansarda, certo, ma la vera non so quante manna, tutta serrata con i vetri scorri, e tretto vi so, chi ti rifanno a letto, fatini, abbigliati lo so, impiti, e insomma... Oh, signori, lo stesso non è una campagna come si può sapere noi in campagna, no? E allora, che fa tutto male. Allora, fa pure la vicina. C'è tutto è tutto bello pulito, se lo fa il marito, non fanno chiamare la gente, pure. Tanto lo travaglio, lo ammazzano, certe cose magari non fanno mai così, la macchia ammazza un tempo, beh, veramente, se facci non fare delle annunce, dai, senti, per carità, se chiaro Marco viene fatto trovare un mediente, in saienti, in mani, cazzo, è restato più visibile, più bella fatta la cosa, però è di buon Zeccari, ripeto, più nani, più nivoni, capito? E Zeccari sempre si dirà, tirano i brutti, so, grazie. E allora vanno chi si molto grossi la strada, vanno tutto l'abbigliamento in pezzi e andano in giro, quando il periodo delle ferie in Spagna e Portogallo, in botto o meno, hai compreso? L'Italia si la parte di Auce Sarrati, la Sicilia a Rugofine, a Trieste, l'Unibi in Italia, tutto si gira in aeropeggio, in tenuta, in moto, a dormire, se se lo dormirà a canadese, no? Ci aspettano in albergo, ci a mangiare un mattese, e vedi che lo è di là, ma lo tenante. Sto conoscendo una cosa, un attimo, grazie. Eia. C'è nessuno? Buonasera. Hola. Io sono, chi vuoi che sia? Hai sentito, buonasera! E allora, il sole è preso tra gli oggi. Ehi, buonasera, grazie. Sì, è sole, sì, ero in grado stamattina, ma sole ce n'era poco e niente, capito? Sono sceso qua a prendere un po' di ricci. E accelerano ricci. C'erano ricci e anche ricce c'erano. I ricci devono raccogliere quel tanto, pure lì adesso più di quello non ne devi raccogliere. Lo so. Vabbè, grazie, mi allontano due minuti che vado a farmi la doccia che poi devo uscire. Dai, ci sentiamo dopo. Vado a andare riccioso. Ok, buona doccia, adesso qua, Gian Maria si è sentato, ok, a dopo, lascia. Ciao. C'è uno che vuole entrare avanti? Un attimino. Avanti. Niente, ciao, a dopo. Ehi, ciao. Ok. Non lo vedo nessuno.